Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, salve a tutti, il traghettatore per questa puntata di Ferry Boat. Questa volta parliamo di solidarietà, è il caso di farlo e temiamo per certi aspetti che sarà il caso di farlo sempre più spesso, visto che l'acqua è bassa, dicono a Napoli, no? La papera scarseggia, in questi casi la papera sono i soldi, e il timore è che le istituzioni, la politica, le amministrazioni abbiano sempre meno risorse da dedicare a chi ha bisogno realmente è molto alto, e dunque il ruolo delle aziende, il ruolo della responsabilità sociale assume, e proprio per questo ancora di più se ce ne fosse bisogno, un'importanza primaria. Acqua? Viveri? Medicinali? Te la do io la solidarietà. Gambe in spalla e al lavoro nei campi. Caribou non fa l'elemosina, ma insegna a vivere e a suonare. Una vita per la pubblicità, quella Progresso però. Alberto Contri è un'icona e lo IULM ha deciso di incoronarlo professore honoris causa. Ma l'azienda responsabile chi deve sostenere? La ricerca? La solidarietà? La cultura? Terna ha chiesto ai propri dipendenti di votare il valore. E poi sarà come impazzire. In un vuoto che abbandona, se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore. Lei è Giorgia, ovviamente la conoscete tutti, purtroppo non c'è lei in studio, dobbiamo accontentarci, ovviamente sorridiamo di questo, di un'icona comunque tanto quanto Giorgia, che è Fabrizio Popi, che da 40 anni vive la discografia italiana e i più grandi protagonisti. Ciao Fabrizio. Ciao, buongiorno. Li hai proprio conosciuti. Grazie. Tutti, no? Sì, li ho conosciuti tutti, però questa è la cosa più bella che mi è successa nei 40 anni, cioè l'incontro con Giorgia. È un personaggio straordinario. È la più grande artista, io la considero la più grande artista in assoluto, anche più di Mina. Non parliamo di musica ovviamente, Fabrizio Popi è qui perché lui è proprio Caribou Associazione Onlus, questa associazione che nasce anche dalla tua attività di editore musicale e certo. Che ha fatto carico di sostenere, di adottare addirittura un villaggio vero e proprio. Parlacene sì. Tu. Guarda, è una sfida, è nata come una sfida perché ho voluto, vorrei, perché non è ancora finito il progetto, ma vorrei dimostrare alla gente quanto sia, non dico semplice, ma come si possa fare solidarietà, beneficenza in maniera seria, in maniera... E quindi avete acquistato un terreno in sì. Kenya, dove esattamente? Abbiamo fatto un accordo in Kenya, in un'area, in un luogo che si chiama Chakama, l'abbiamo fatto direttamente con gli abitanti di Chakama, e loro ci hanno regalato 8 ettari di terra. Ci hanno regalato 8 ettari di terra per fare un comprensorio dove costruire, dove noi dobbiamo costruire l'asilo, le scuole, la falegnameria, la sartoria, l'ambulatorio, un piccolo orfanotrofio. Ma soprattutto, Orpo, deve essere diversamente visto il personaggio che sei, anche per insegnare la musica. E soprattutto, sì, c'è la casa dei mestieri, che è praticamente la casa dove si insegna musica, che poi è la mia materia, perché il sogno mio è quello di, una volta finito, di stare là. Cioè, io credo che può sembrare che si ascolta magari singolare una scelta, dice, ma questi hanno bisogno di mangiare, di bere, di medicinare, e si va lì a insegnare la musica. Ma io credo che insegnare la musica sia altamente formativo nella sensibilità e nell'attenzione, perché questo vuol dire pensare realmente al loro futuro e non tappargli la bocca con un'elemosina. Hai detto bene. Noi abbiamo fatto una riunione con tutti gli abitanti di questo piccolo insieme di case e abbiamo fatto proprio, siccome abbiamo fatto un accordo col governo, con un ente governativo, questa persona ha proprio deciso di far decidere a loro, nel senso che loro hanno scelto per le scuole, loro hanno scelto per l'insegnamento, perché giustamente dicono l'insegnamento è la fonte poi del possibile futuro benessere. Ecco, James Kazungu Menga è in collegamento con noi proprio da Kenya, da Chakama. James è lì? Ciao. Ciao James. C'è Popi che ti saluta. James, allora, che cosa grazie a Caribou sta accadendo lì a Chakama? Cosa state facendo? Sì, Chakama adesso è tanto grazie per Popi, perché Popi è venuto a Chakama. Allora tra un po' facciamo l'asilo, facciamo un progetto grande, chiamo Chakama Orphan Self Help Group. Adesso funziona bello, l'asilo funziona, sono mancati acqua, poi tante cose ancora non funziona, però adesso sta meglio. James, lì funziona l'asilo e poi cos'altro state facendo? L'asilo funziona, poi c'è generatori. Generatori per la corrente, certo, se no l'asilo come lo fate, certo. Dicevi che poi facciamo una cosa per l'acqua. Per l'acqua. Chiamo Tawa. Si chiama? Tower è una torre di 12 metri dove si raccoglie l'acqua del fiume e accaduta l'acqua poi arriva al villaggio, chiaramente viene depurata prima che arrivi al villaggio, non solo, ma durante il tragitto viene deviata per le coltivazioni. Ok, James, invece la musica, il ballo, beh, voi siete molto bravi, particolarmente bravi in Africa con la musica, e lì ci sarà una casa delle arti e dei mestieri dove la potrete studiare, anche i bambini potranno studiarla. Beh, sì, è anche sufficiente come risposta, Poppy, no? Il nostro amico ha qualche difficoltà con l'italiano, però vuol dire più di sì che cosa deve dire. Certo, è vero, ci sarà questa casa della musica. Certo, c'è Steve che è anche il nostro, per adesso, l'insegnante. C'è un ragazzo di Chakama che si chiama Steve, che è l'insegnante al quale abbiamo mandato i libri per insegnare musica, ed è lui per adesso l'insegnante fino a quando poi non arriverò io. Un'ultima domanda a James e poi lo salutiamo. James, quante persone studieranno con voi? Quanti bambini ci sono attorno all'iniziativa di Poppy? Adesso sono 68 e bambini. L'asilo. Sì, solo l'asilo. Sono tanti, 68. Solo l'asilo. Bene, grazie James, buon lavoro, salutaceli tutti i bambini di Poppy, li chiameremo così. Ciao James, grazie. Ciao James. Noi abbiamo fatto anche proprio altre esperienze con la Caritas, per esempio, su iniziative più portate alla solidarietà più finanziaria, cioè prestiti, microprestiti per noi insignificanti, 50 euro per fare una farmacia che però dà da mangiare a intere famiglie. Questa parte dell'Africa è sempre estremamente toccante e si ha proprio la sensazione di fare delle cose per gli altri. Sì, qui hai la netta sensazione di fare del bene, nel senso che tu arrivi in un posto dove non c'è nulla, dove non c'è acqua, dove non c'è luce, dove mangiano solo la polenta di mais, quindi c'è tutto da fare, lì c'è solo da rimboccarsi le maniche. Difatti noi, l'accordo che abbiamo fatto noi è stato questo: noi veniamo, vi portiamo i mezzi, vi portiamo i finanziamenti anche, no? Vi aiutiamo a comprare attrezzi, sementi, animali e tutto quanto, però poi il resto è tutto vostro. Li abbiamo riuniti in una specie di cooperativa dove chi è iscritto lavora il lavoro, perché ci sono i falegnami, ci sono le sarte, ci sono gli insegnanti. Dopodiché il 10% dello stipendio che prendono lo versano nella cassa della comunità. Cioè, ho cercato di fare in modo che siano proprio loro dall'inizio i responsabili del loro futuro, capito? Perché è inutile andare in un posto, se vuoi fare beneficenza e vuoi andare in un posto e dici va bene, allora noi vi regaliamo i quaderni, e questi quaderni ce li hanno e hanno bisogno delle penne, i tuoi quaderni non sono utili, no? Perché se hanno bisogno delle penne, per questo noi abbiamo chiesto loro cosa dobbiamo fare, vogliamo fare questo, quest'altro, benissimo, organizziamoci. Ecco, l'organizzazione è la cosa principale. Bene, adesso continuiamo la storia di solidarietà con un personaggio che in qualche modo rappresenta un po' un emblema nel nostro paese per la sua storia. Questo personaggio è Alberto Contri. Ciao Alberto Contri. Buongiorno. Presidente di Pubblicità Progresso e tante altre storie. Noi abbiamo appena ascoltato, e tu come presidente di Pubblicità Progresso te ne intendi di solidarietà, abbiamo ascoltato questa storia dell'Africa che ci piace per un motivo, e ci ascolta qui Poppy Fabrizio che l'ha promossa, perché non è la solita iniziativa di solidarietà e di elemosina, ma serve a dare gli strumenti esistenziali a questa gente, a spiegarli, a aiutarli a vivere. Beh, esattamente quello che bisogna fare. In realtà noi che facciamo le campagne sociali riteniamo che non basta uno spot in televisione, ci vuole quella che gli anglosassoni chiamano la call to action, invitare la gente a fare delle cose. In particolare questo tipo di attività sono poi le migliori, perché insegnano, come diceva il vecchio proverbio cinese, dai un centesimo, dai un pesce a un uomo un giorno, mangerà un giorno, insegnale a pescare, mangerà tutta la vita. Esatto. Ed è quello che abbiamo potuto notare anche in altre circostanze, non è una questione di soldi per loro, è una questione di modalità proprio, di meccanismi della vita quotidiana. Sicuramente, così imparano a fare delle cose, e quindi conosco varie altre iniziative in giro per il mondo di questo tipo, e sono esattamente quello che ci vuole per ricreare una coesione sociale anche in questi paesi sottosviluppati. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Abbiamo detto professor Alberto Conte, adesso facciamo una piccola deroga, diciamo così, se così si può dire, agli stereotipi dell'informazione obiettiva. Alberto, parliamo di te, perché noi ci conosciamo da tanto tempo. Adesso tu riceverai lunedì la laurea honoris causa allo IULM, che al di là del prestigio dell'evento è veramente la ciliegina su una torta. Tu non sei un professore, tu sei un pubblicitario, un musicista, sei di tutto e di più, ma non un professore. Eppure sei arrivato a questo traguardo perché la tua storia è intensa, vera, ed è la quintessenza della comunicazione. Lo so che è imbarazzante parlare di sé, ma fallo. Bah, posso solo dire che sono ormai 45 anni che lavoro nel mondo della comunicazione. Ho cominciato come creativo e poi pian piano ho avuto responsabilità, sono uno dei pochi creativi che sono passati poi a gestire anche. Ho avuto anche la fortuna e l'onere e l'onore di attraversare istituzioni come l'Associazione Agenzia Pubblicità, il Consiglio della RAI, insomma, quindi ho visto un po' tutto il mondo della comunicazione dal di dentro e dove si cucinano le cose anche importanti. Ho cercato di mantenere sempre uno sguardo. Hai fatto anche l'amministratore delegato di Rai.net, che è stato un successo veramente interessante, perché abbiamo costruito un portale con 450 siti, con 4 spiccioli, e in quell'ambiente assolutamente difficile che è oggettivamente il servizio pubblico. E poi tante altre cose che adesso tralasciamo, e sono approdato all'insegnamento universitario perché mi aveva chiamato Giampaolo Fabris, prima Sarafaeli, adesso mi hanno chiamato lo IUL, perché poter portare a questi ragazzi un'esperienza professionale concreta al di là degli aspetti teorici. Infatti i miei corsi sono sempre affollati, non tanto perché io sia bravissimo, ma perché ti faccio delle lezioni mostrandogli le più belle campagne del mondo e quindi analizzando linguaggi al vivo, e questa è la cosa più interessante. Beh, io ti ho visto non durante le lezioni, ma in azione nei convegni. Hai indubbiamente le storie che tu racconti sono storie vissute, cioè i ragazzi forse sono affascinati anche da questo, per una volta non aree di libri di testo o teorie che oggi sono francamente e facilmente contestabili, ma un viaggio intorno al mondo della pubblicità, del passato, del presente, e quindi a questo punto anche una bella premessa per il futuro. Ci vuole una certa passione, chiaramente oggi i giovani sono proprio che sono un po' demotivati, come abbiamo visto anche da recenti ricerche, appena trovano qualcuno appassionato gli si accende un lumicino, quindi questo nella terza fase della mia vita, oltre a continuarmi a occupare di comunicazione sociale, penso che l'insegnamento sia, diciamo, consegnare i doni che uno ha anche ricevuto, per carità me li sono anche guadagnati perché ho lavorato e sudato tantissimo, ho studiato tantissimo, però insomma trasferire ai più giovani un'esperienza, e così ci agganciamo con la cosa di prima, come queste persone straordinarie che vanno a insegnare a fare gli artigiani, e noi dobbiamo insegnare come si comunica bene, sul serio, al di là degli stereotipi. Questo non è facile, però devo dire è affascinante. Ecco, la gente che ti ha ascoltato probabilmente penserà che tu abbia 120 anni per tutte le cose che hai fatto. Hai i capelli bianchi, no? Come che ti definisci sempre tu ogni volta? Un giovane dai capelli grigi. Un giovane dai capelli grigi. Grigie, e chi ti conosce sa che è così. È un club, i giovani delle tempie grigie sono quelli che devono darsi da fare per... E quindi anche questa laurea qua... Altro che rottamare, vero Alberto? Un riconoscimento a un mestiere, perché sono stati date lauree a cantanti, a motociclisti, automobilisti, conduttori televisivi, insomma diamo un riconoscimento a uno che si è fatto un mazzo di 45 anni sul marciapiede della comunicazione. Bene, questa conclusione peripatetica è proprio riconoscibile nel personaggio straordinario che sei. Complimenti vivissimi anche da Popi Fabrizio. Tanti Alberto complimenti, Conte. Tanti ciao professore. Complimenti, grazie. Ciao professore. Popi, sì. Conte ha fatto anche le sue battaglie per riuscire a trovare i soldi per fare, per esempio, pubblicità Progresso, cosa che immagino sia un sentire per te consueto. Sì, guarda, noi è una battaglia continua con i soldi, perché chiaramente la Onlus vive di finanziamenti, vive di donazioni, sì. Per cui dobbiamo sempre pensare a come trovare i soldi, a come convincere soprattutto la gente, no? A farci delle donazioni, che non è semplicissimo, è difficile. Tant'è vero, tanto difficile è che Terna, che è un'azienda importante che opera nel campo dell'energia elettrica, ha pensato addirittura di coinvolgere tutti i dipendenti per capire come fare per aiutare. Terna ha chiesto ai propri collaboratori di votare il valore per coinvolgerli nella difficile scelta delle destinazioni dei fondi per le iniziative solidali. Una sorta di autocertificazione che ha dato però risultati interessanti. Hanno votato più di 2.000, il 61% del totale, definendo un'intrigante classifica di merito fra i valori. Al primo posto la legalità e l'onestà, quindi il rispetto e infine la responsabilità e buona gestione. Ai 6 progetti che hanno ottenuto più voti sono andati 5.000 euro. Esercizio di stile? I risultati però sembrano valere più di un sondaggio. Fulvio Rossi, CSR Manager di Terna, ciao, buongiorno. Ciao Enzo, buongiorno, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Ti ascolta anche Popi. Buongiorno. Fabrizio. Hai sentito la scheda, che ovviamente riconosci perché nasce proprio dalla vostra esperienza. Io dico, alla fine scriviamo risultati che valgono più di un sondaggio, perché in effetti la classifica che viene fuori dal vostro lavoro rispecchia veramente quello che potrebbe essere, insomma, il momento critico di questo paese. Sì, non è stata la prima volta in cui noi abbiamo cercato di coinvolgere i nostri colleghi rispetto ad azioni di solidarietà. Questa è stata un po' più complessa, perché appunto ha coniugato la nostra esigenza di una sensibilizzazione sui valori fondanti del nostro codice etico con appunto la volontà di una maggiore responsabilità rispetto alle donazioni, rispetto alle liberalità. E quindi questa idea di far votare, no, ha da un lato focalizzato le persone sui contenuti veri, importanti del nostro codice etico, che noi ovviamente vorremmo che fosse riflesso nei comportamenti di tutti i giorni, e gli ha comunque permesso di esprimere anche un orientamento rispetto a quelle che sono poi le iniziative di solidarietà aziendale. E credo che questo abbia colto nel segno, perché appunto il 62% quasi di risposte significano una partecipazione importante, ma poi appunto sapevamo già da altre precedenti iniziative che c'è una forte sensibilità dei nostri colleghi. Ecco, su questi temi. Noi questa trasmissione l'abbiamo dedicata all'esperienza di Caribù, l'associazione di Popi Fabrizio, che raccoglie fondi per ha adottato un paese che si chiama Chacama. Abbiamo tutti sentito, hanno proprio bisogno. Mi chiedevo, leggendo dei vostri risultati, in effetti, visto il momento critico che stiamo attraversando, forse c'è una minore tensione verso la solidarietà dei paesi più poveri. Questo non sono in grado di dirlo. Io quello che posso dire è che questo elemento di partecipazione dal basso noi lo cerchiamo di valorizzare sempre, tant'è vero che c'è un'altra iniziativa di cui stiamo portando a termine proprio in questi giorni una pubblicazione, che anzi, se poi tu avrai la gentilezza di ospitarci ancora, sarò contento di raccontare nel dettaglio, che nasce proprio da un'iniziativa di volontariato di due nostri colleghi che sì, per conto loro sono andati in Bolivia, e noi siamo andati dietro, diciamo, a questa cosa. Bene, quindi effettivamente io, la mia osservazione non era ovviamente riferita a Terna, ma al momento che stiamo attraversando, ma poi è chiaro che le aziende proprio sì, riescono sempre fortunatamente a ritagliare un impegno, un'attenzione su sì, questi sì, mondi. Sì, ma questo è lodevole, questa mi sembra veramente un'ottima iniziativa che dovrebbero fare un po' tutti gli altri, perché gli altri... Beh, non tutti, però diciamo che noi in Italia, vero Fulvio, in Italia noi abbiamo una sensibilità, però diciamocelo francamente, ogni volta siamo sempre molto severi nei nostri confronti, ma su certe cose noi ci siamo, no? Anche proprio come sensibilità. Assolutamente, c'è una sensibilità molto diffusa, appunto, e noi siamo contenti di poter far leva su questo, perché se no, come dire, si fanno iniziative che sono tutte lodevoli, per carità, ma sono un po' astratte, si spara nel mucchio, è vero. Ecco, abbiamo cercato di radicarle. Bene, grazie Fulvio, aspettiamo questo libro della Bolivia di cui parleremo volentieri, grazie tanto di aver raccontato la vostra storia e complimenti per averla intrapresa. Grazie. Arrivederci. Arrivederci anche a Popi Fabrizio, continua così, faremo il possibile per parlare di voi, perché più soldi ci sono, più i ragazzi di James, no, prima 68 si arriva, bambini di James. Prima potranno. Si arriva alla conclusione. Grazie Popi Fabrizio. Grazie. Ringraziamenti i soliti e inevitabili alla Anita Panizia redazione e alla regia di Peter Bescapè. Saluti a tutti, vi ricordo che la trasmissione è su radio24.it.